Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Crolla un ponte lungo una strada provinciale in località Albiano, in provincia di Massa Carrara, coinvolti due furgoni, ferito un autista. E intanto sempre oggi il GIP di Messina ordina il sequestro di due cavalcavia sulla A20 Messina-Palermo. Le strutture portanti sono corrose, c'è il rischio per la stabilità. Emergenza coronavirus per l'OMS, non è ancora il momento di allentare le misure, dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi, dice il direttore regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Rinviati a domani i lavori dell'Eurogruppo, manca l'accordo su MES e Corona Bond, il commissario Gentiloni rilancia, facciamo appello al senso di responsabilità di ogni Stato. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Cominciamo subito con le notizie che arrivano al confine tra la Toscana e la Liguria, dove un ponte è crollato nei pressi di Aulla in provincia di Massa Carrara sulla strada provinciale 70. Si tratterebbe tra l'altro di una struttura già al centro di denunce per le crepi presenti su questo viadotto, e ci sarebbero anche due furgoni coinvolti, un autista ferito. Sembrerebbe in modo non grave, ma facciamo il punto, gli aggiornamenti con Maurizio Caprino. Buongiorno Maurizio. Sì, buongiorno. È l'ennesimo crollo che si è verificato, stavolta in maniera meno silenziosa di altri. Voglio ricordare che appena 5 giorni fa a Gonnesa, in Sardegna, è crollato un altro ponte su un'altra strada provinciale. E dunque ci si chiede perché sulle strade provinciali, e il motivo è che le province non hanno le strutture, proprio gli uffici, non hanno neanche le risorse per badare alla manutenzione. Poi ovviamente anche in quegli uffici striminziti che hanno, magari le professionalità non sono coltivate esattamente come gli altri enti proprietari di strade, a partire dalle concessionarie autostradali o dalla stessa ANAS. Ma che notizie si hanno, scusa Maurizio, al momento su questo crollo, sui due furgoni coinvolti anche sugli autisti? Sì, allora si sa che c'è un ferito appunto in codice giallo, quindi è andata bene, questa volta è andata bene, e sicuramente non possono essere due furgoni a mandare in crisi una struttura di quel tipo, anche perché era una struttura tarata per avere un traffico molto superiore, e in questi tempi il traffico è dimezzato, come ha detto la stessa ANAS nel suo bollettino sul traffico mensile di ieri. Cito l'ANAS anche perché sembra che l'ANAS sia tornata nella gestione di questa strada statale nel 2018, perché c'è questo federalismo stradale fatto 20 anni fa e mal riuscito, ha determinato poi un ritorno nelle mani dell'ANAS di migliaia di chilometri di rete, e sembra che ci fosse anche questo ponte, e tant'è che la ministra delle infrastrutture Paola De Micheli ha chiesto una relazione proprio all'ANAS. Va bene, grazie Maurizio Caprino, grazie per essere stato con noi, per averci aggiornato sul crollo di questo ponte in località Albiano. Sempre oggi, tra l'altro, il GIP di Messina ha ordinato il sequestro di altre due strutture in Sicilia. Si tratta di due cavalcavie dell'autostrada A20 Messina-Palermo, dove risultavano esserci delle corrosioni nella struttura portante che mettevano a rischio la stabilità di questo cavalcavia. Cambiamo argomento e dopo 16 ore di riunione torniamo a parlare dell'Eurogruppo che non è riuscito a raggiungere una conclusione né sul MES né tantomeno sui Corona Bond. Oggi a rompere il ghiaccio è il commissario Gentiloni, che dice: facciamo appello al senso di responsabilità di ogni Stato. Sentiamo. Non è bastata la maratona di 16 ore in videoconferenza per raggiungere un compromesso sulla risposta economica da dare all'attuale emergenza coronavirus. I ministri delle finanze dei 27 paesi europei dunque si ritroveranno domani, e se non dovessero raggiungere un accordo la palla passerebbe direttamente al prossimo Consiglio europeo. Ci siamo avvicinati a un'intesa, ma ancora non ci siamo, ha annunciato il presidente dell'Eurogruppo Centeno su Twitter, e a quanto pare nel corso della riunione sarebbero stati fatti passi in avanti verso l'apertura a un fondo per la ripresa basato sulla proposta franco-italiana. italiana di titoli del debito comune, cosiddetti recovery bond, mentre stallo sul MES senza condizioni, una proposta che continua ad essere respinta dall'Olanda, paese che chiede precise e stringenti condizioni economiche all'uso del prestito, tranne che nel caso di costi medici. Continuiamo ad impegnarci per una risposta europea all'altezza della sfida, ha scritto il ministro dell'economia Gualtieri. È il momento della responsabilità comune, della solidarietà, delle scelte coraggiose e condivise, e anche il commissario agli affari economici Gentiloni ha fatto appello al senso di responsabilità necessario in una crisi come questa. Ottimista sul raggiungimento di un accordo il ministro delle finanze tedesco Scholz. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso le notizie per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Secondo l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, in Europa non è il momento di allentare le misure, bisogna anzi raddoppiare e triplicare gli sforzi per sconfiggere il coronavirus, ha detto Peter Kluge, direttore generale dell'OMS per l'Europa. E in Italia si conferma il rallentamento dell'epidemia, mentre secondo l'Istituto Superiore di Sanità sarebbero addirittura 1000 gli anziani morti nelle RSA della Lombardia. Su alcuni casi si stanno aprendo delle inchieste, anche la regione ha avviato una indagine interna. Sentiamo. Finalmente la curva dei contagi scende. Ieri le persone risultate positive sono state 878 contro le 1941 del giorno prima. In diminuzione anche i ricoveri, in terapia intensiva ci sono 3.792 persone, 106 meno di ieri. Cala anche il numero dei morti, sebbene restino tanti, 600 vittime del Covid-19 che ha stravolto le nostre vite e che l'assessore lombardo al welfare Gallera, intervenendo a Radio 24, ha paragonato a un fungo atomico che ha travolto tutto. Il trend dei cali si conferma anche in Lombardia, la regione più colpita. La sanità lombarda è forte e ha retto, continua l'assessore al welfare Gallera. Poi ribadisce che è falsa la notizia che non fu sanificato l'ospedale bergamasco di Alzano Lombardo. Il 22 si fa un tamponamento ad una persona, il risultato arriva il 23, immediatamente dopo il risultato viene chiuso il pronto soccorso, sanificato i locali. Sulla vicenda la procura di Bergamo ha aperto un'inchiesta, si tratta di un fascicolo contro ignoti e l'ipotesi di reato epidemia colposa, mentre la procura di Milano indaga sui casi di contagi e morti sospette per il coronavirus nelle case di riposo diventate epicentro della pandemia a Milano. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E allarghiamo lo sguardo a livello mondiale. Timori per un nuovo focolaio di coronavirus ci sono in Cina, mentre il contagio sta crescendo anche in Russia. Riaffiora la paura in Cina e intanto la pandemia arriva a quota 82.000 vittime nel mondo. Mentre ieri, dopo quasi tre mesi, si è concluso l'isolamento di Wuhan, allo scoccare della mezzanotte locale il divieto di lasciare la città è caduto, non è ancora finita l'emergenza in Cina, che ha registrato 62 nuovi casi di contagio, di cui 59 importati e 3 domestici e 2 decessi. Un altro centro più piccolo deve fermarsi per i timori sulla seconda ondata di Covid-19. Nella provincia del nord di Heilongjiang, dopo il picco giornaliero di 25 casi importati con gli arrivi di viaggiatori dalla Russia, dove il contagio sta crescendo. I casi di coronavirus in Russia infatti sono saliti di 1.175 unità nelle ultime 24 ore, arrivando a toccare quota 8.672. A Mosca ormai oltre 5.800 casi. Nelle ultime 24 ore morte altre 5 persone. Il totale arriva a 63. In Corea del Sud nuove infezioni, 53, altri 8 decessi. Anche in Europa riprende la morsa dei decessi. In Francia, dove ieri si è superata quota 110.000 contagi, da oggi a Parigi vietata ogni attività sportiva all'aperto fra le 10 e le 19. Negli Stati Uniti, mentre Trump annuncia la sospensione dei fondi all'OMS per ritardato allarme, circa 2.000 morti in 24 ore. Il peggior bilancio giornaliero nel mondo da inizio pandemia. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo in Italia. A Milano riprendono i lavori per la realizzazione della metropolitana M4, l'annunciano Salini in Pregilo e Astaldi, che insieme al Comune e gli altri operatori coinvolti fanno sapere di avere riattivato tutti i necessari protocolli per far operare i lavoratori nella massima sicurezza. È una delle prime attività che ripartono, le aziende italiane sono divise in queste ore tra la messa a punto, come avete sentito, dei protocolli di sicurezza per far ripartire i lavori garantendo la salute dei lavoratori, ma anche per quanto riguarda l'accesso alle misure di sostegno economico. Il decreto Cura Italia approda oggi in aula al Senato per la discussione generale dopo il via libera della Commissione e domani il Governo porrà la fiducia sul provvedimento da 25 miliardi con i primi aiuti per famiglie e imprese in difficoltà. La scelta della fiducia, decisa dal Governo per accelerare i tempi di approvazione del provvedimento in assenza di un'intesa, non piace all'opposizione. Se blindano il decreto, dice il capogruppo leghista Massimiliano Romeo, non ci sono i presupposti per collaborare. Anche Forza Italia preannuncia un voto contrario e per Fratelli d'Italia, con la richiesta della fiducia, si smaschera la farsa del Governo sulla condivisione di scelte e provvedimento. Passi avanti intanto si registrano sul fronte applicazione delle misure del Cura Italia. L'INPS e l'Associazione delle Banche hanno infatti trovato un accordo per semplificare e accelerare l'accredito della cassa integrazione da parte degli istituti di credito. Le procedure INPS così non richiedono più l'invio dei modelli cartacei validati presso gli sportelli bancari e postali. Semplificato anche il modello telematico con cui le aziende comunicano i dati dei lavoratori per il pagamento della cassa integrazione. E Banca Italia lancia l'allarme. La sospensione delle attività mette a rischio la tenuta economica delle famiglie europee. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il trattamento dei dati personali realizzato tramite app richiederebbe una legge ad hoc, lo ha detto oggi il garante per la privacy Antonello Soro parlando di una app per il tracciamento dei soggetti positivi al coronavirus di cui si sta discutendo in questi giorni. Secondo Soro dovrebbe trattarsi almeno di un decreto legge per attivare questa modalità che assicura, ha detto Soro, la tempestività dell'intervento pur non omettendo il sindacato parlamentare né quello di costituzionalità, diversamente da quanto accade invece per le ordinanze che sono state usate fino a questo punto. E dei primi passi della fase 2 parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno. Il Papa ha rivolto nuovamente oggi il suo pensiero ai santi della porta accanto, medici, volontari e tutti quelli che in questo momento stanno dando una mano. Alcuni governi hanno preso misure esemplari con priorità ben definite per difendere la popolazione, ma ci stiamo rendendo conto che tutto il nostro pensiero è strutturato intorno all'economia, lo dice il Papa in una intervista. Francesco, in questa situazione emergenziale è preoccupato per i più deboli, i fragili, e mette in guardia da una politica della cultura dello scarto. Monsignor Vincenzo Paglia è il presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Io credo sia particolarmente importante che la nostra attenzione, come il Papa continua a sollecitarci, sia verso quelli che sono ancora più fragili di noi. Penso appunto a coloro che non hanno casa, agli anziani che stanno negli istituti, penso agli anziani che sono soli, o a chi ormai ha problemi anche di mangiare. Oggi in Europa, ha ricordato il Papa, quando si cominciano a sentire discorsi populisti o decisioni politiche di tipo selettivo, non è difficile ricordare i discorsi di Hitler. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:13, Effetto Giorno fa un piccolo break, torniamo tra poco con tutte le altre notizie, torneremo in provincia di Aulla per il ponte di Albiano, cronaca di un crollo annunciato forse perché c'erano state delle recenti denunce all'ANAS su questo ponte. Poi andremo anche in Liguria dove, visto che sta diventando pressoché obbligatorio l'uso delle mascherine, lo è già in Lombardia, in Toscana, la Liguria annuncia una distribuzione straordinaria di mascherine gratis per tutta la popolazione. E poi parleremo ancora di quello che è accaduto nelle case di cura in queste settimane. Saremo nelle Marche. 349-238-6666 per i vostri messaggi. A tra poco. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Crolla un ponte lungo una strada provinciale in località Albiano, in provincia di Massa Carrara, coinvolti due furgoni, ferito un autista. E intanto, sempre oggi, il GIP di Messina ordina il sequestro di due cavalcavia a rischio sulla A20 Messina-Palermo. Rinviati a domani i lavori dell'Eurogruppo, manca l'accordo su MES e Coronabond. Il commissario Gentiloni rilancia: facciamo appello al senso di responsabilità di ogni Stato. Emergenza coronavirus, il governo prepara la fase 2. Dopo Pasqua, via libera ad alcune aziende. A maggio cittadini e negozi, incerta però la riapertura delle scuole. Dopo la Toscana, anche la Liguria annuncia in arrivo mascherine gratis per tutti i cittadini. La consegna affidata a Poste Italiane. 13 e 16 minuti di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, in diretta con Effetto Giorno. E allora torniamo a quello che è accaduto stamattina al confine tra la Toscana e la Liguria, dove è crollato un ponte lungo la strada provinciale 70 in località Albiano Magra, che collega la statale provinciale 70 con la 62. Nel crollo sarebbero rimasti coinvolti due furgoni e un autista miracolosamente illeso, l'altro ferito, ma credo in modo non grave. Alle prime notizie che si hanno, è con noi in collegamento, e lo ringrazio, il sindaco di Aulla, Roberto Valettini. No, non c'è il sindaco, è caduta la linea. Allora lo recuperiamo, spero, velocemente, per farci raccontare intanto appunto la cronaca di questo crollo. Anche perché non si è trattato di un incidente, perché effettivamente le notizie che abbiamo sono che ci sono state in passato già delle denunce per le crepe presenti su questo viadotto che attraversa il fiume Magra. Con noi il sindaco, sì, buongiorno Valettini, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno, sì, buongiorno. Io. Allora, senta, intanto le chiederei notizie delle persone, credo due a quello che si è saputo, rimaste coinvolte in questo incidente, due autisti, giusto? Sì, sono due persone, di cui una, grazie a Dio, non ha avuto nessun problema, almeno apparentemente, e un'altra che invece ha avuto una gamba fratturata e quindi è stata portata a Cisanello. All'ospedale di Pisa. Sì, ha parlato con i genitori, ho parlato con i genitori anch'io e con il fratello, ed erano sereni, pur dispiaciuti ovviamente, per il fatto di questo grave incidente, certo, che comunque è avvenuto, grave incidente per lui, non gravissimo fortunatamente, ma grave per tutta la collettività. Io questo tipo di problematicità che il ponte poteva presentare l'avevo segnalato all'ANAS, perché è un ponte su una strada statale con una competenza esclusiva dell'ANAS, e io ho scritto più lettere perché si facessero le indagini, anche quelle penetrometriche, perché mi è stato fatto capire, io faccio l'avvocato, non faccio l'ingegnere, mm-hmm, che queste indagini erano indagini indispensabili per avere maggior contezza. Che tipo alla di... fine ho ricevuto le, sì, risposte scritte che mi dicevano che quel ponte non presentava criticità, non presentava problematicità e quasi che non continuassi a seccare. Ah, ecco, addirittura risposte da parte, ecco, dell'ANAS, sindaco? Sì, delle risposte ferme da parte dell'ANAS, nelle quali mi si diceva che tutto era a posto. Quindi io, non avendo nessuna competenza, perché è una strada statale, un ponte statale, già premurarmi di... Sì, lei dice, abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo segnalato, che tipo di danni lei aveva segnalato, che tipo di danni erano visibili, c'erano, che tipo di incrinazioni, fessurazioni, sì, e mi è stato riferito che queste fessurazioni erano soltanto dovute a dei movimenti di assestamento, ma che non avevano nessuna afferenza strutturale, non avevano nessuna rilevanza strutturale, cioè non mettevano a rischio la struttura portante di questo ponte. Senta, le posso chiedere lei ha scritto all'ANAS e l'ANAS le ha risposto, se lei ha conoscenza del fatto che l'ANAS sia uscita con dei tecnici per fare delle verifiche che, diciamo, di cui lei abbia avuto contezza, cioè che abbiano effettivamente loro mi hanno riferito che avevano fatto delle indagini più approfondite, non hanno coinvolto il mio ufficio tecnico perché è palesemente incompetente a entrare in merito, e quindi ovviamente loro hanno riferito che ha fatto queste indagini, me lo hanno anche scritto, e tecnicamente io certo non ho partecipato a nulla, perché sarebbe stato... Lei ha sollecitato, io volevo capire se eravate a conoscenza del fatto che, oltre a rispondere via lettera in questo modo, si è rivelato un modo incredibile, se lei era a conoscenza del fatto che erano usciti i tecnici per vedere. Perché... Sì, noi siamo a conoscenza che sono andati anche i tecnici, sì. Ecco. Ci hanno comunicato anche questo. Non si sa se considerare ponte... peggiore l'ipotesi che non siano usciti di quella che siano usciti, perché in un caso o nell'altro comunque è facile capire, intuire che c'è stata una sottovalutazione molto grave. Tra l'altro, sindaco, si tratta di un c'erano questi due furgoni che sono transitati e, come ci diceva lei, uno dei due autisti è illeso, l'altro è ferito in modo non grave. Un miracolo, perché forse per via del lockdown in questo momento circolano pochissimi mezzi, perché quello è un ponte e ci dicono molto molto molto transitato. Sì, perché tutto il Levante Spezzino, tutto il Levante Ligure è collegato alla Lunigiana attraverso questo ponte. Quando chiudono poi la strada della Ripa, che è una strada in comune di Vezzano Ligure con Bolano, questa intersezione, quando chiudono quella strada per problemi franosi, gran parte del traffico si riversa lì e gran parte delle macchine stazionano su quel ponte per immettersi, siccome è un'inserzione a T, quindi un'inserzione ad angolo retto sulla strada statale 62 della Cisa. Il fatto che non ci sia stato il morto, ringraziando il Dio in questo periodo già abbastanza tragico, è un fatto eccezionale, è un fatto eccezionale. Rimane il dramma, anche economico, anche, però almeno questo. Le voglio chiedere un'ultima cosa, sindaco, sindaco Valentini. Le voglio chiedere, lei che idea si è fatto personalmente dopo aver scritto all'ANAS e ricevuto queste risposte? Pensa che ci sia, come dire, stata una sottovalutazione, ci sia stato un eccesso di burocrazia per cui la lettera in qualche modo si è persa in qualche cassetto e non c'è stata dovuta attenzione, oppure per una carenza di mezzi l'ANAS in qualche modo stia procrastinando gli interventi perché ritiene di non essere in grado di poter poi eventualmente intervenire per ristrutturare questi ponti? Quale idea si è fatto lei personalmente? Dunque, mi sono fatto questa idea, che alla luce di quello che è successo questa mattina, evidentemente queste indagini sono state indagini non così approfondite come io avevo richiesto, primo punto. Secondo, non vi è stata sicuramente una trascuratezza, direi burocratica, perché le lettere sono state inviate, hanno avuto risposta, quindi vi era contezza da parte dell'ANAS, era consapevolezza che le criticità c'erano o quantomeno venivano espresse, che poi venissero espresse da profani e quindi non fossero degne di nota, questa è una valutazione che evidentemente ha ritenuto di fare l'ANAS e che è stata sconfessata da quello che è successo stamani, perché le sintetizzo la domanda: come è possibile che i tecnici che hanno preso in considerazione le sue segnalazioni, perché lei dice non è una questione che la lettera si è persa o c'è stata una lentezza burocratica, sono usciti, hanno fatto i controlli e il risultato è questo, lei perché pensa che sia arrivati a questo? No, questo io non lo so, non me lo so spiegare. Indubbiamente c'è stata una sottovalutazione dei problemi, questo è quello che io ritengo. E che mi sembra anche abbastanza evidente, certo. Ecco, dico una banalità dicendo che c'è stata una sottovalutazione del problema, perché dagli effetti si vede che così è successo. Insomma, io ho questa netta sensazione. D'altra parte io la ringrazio, sindaco di Aulla, Roberto Valentini, la ringrazio. D'altra parte non spetta a lei rispondere sul perché l'ANAS non è intervenuta. Lei ha fatto la sua parte, perché ha segnalato e poi è mancato l'intervento dell'ANAS, che è concessionario di quel tratto di strada, quindi responsabile anche della manutenzione. Su questo ci sarà naturalmente da capire e credo anche da indagare a livello penale. Minuti, adesso apriamo una finestra sulla speranza, sull'attesa di questa fase 2, di cui si cominciano ad avere alcuni dettagli. Potrebbe iniziare qualcosa a muoversi dopo Pasqua, ma soltanto per certe attività economiche molto particolari e poco esposte al rischio, ma per tutti se ne riparlerà sicuramente dopo il 4 di maggio. Sentiamo Andrea Viali. Nonostante il calo dell'indice di contagio nel nostro paese, governo ed esperti invitano alla cautela. Stiamo lavorando al domani, ma anche nella fase 2 dovremo convivere con il virus, perché il virus non scomparirà, avverte il ministro della Salute Speranza, il quale fa sapere che sarà importante investire sulla medicina del territorio e sui Covid hospital. Ci sarà una campagna di test diagnostici e test sierologici e il lancio di un'app che consentirà una maggiore velocità velocità nel tracciare i casi positivi, l'esecutivo si appresta a prorogare le misure di contenimento dell'epidemia oltre la scadenza del 13 aprile. Il ministro degli affari regionali Boccia fa sapere che non c'è ancora una data per la fase 2 e spiega che si dovrà riaprire gradualmente in base al fattore di rischio dei vari settori. Le prime imprese a ripartire dovrebbero essere quelle della filiera alimentare, farmaceutica e sanitaria e le aziende meccaniche. Il secondo passo, con un allentamento delle misure sugli spostamenti, non dovrebbe scattare comunque prima di maggio. Anche dalla comunità scientifica si ripetono gli appelli a non abbassare la guardia. Dobbiamo prepararci alla nuova fase, ma avere ancora pazienza, dice il virologo Walter Ricciardi. L'ipotesi della riapertura a maggio è la più perseguibile e attendibile, aggiunge Massimo Galli, primario dell'ospedale Sacco di Milano, secondo il quale però sarebbe più prudente se le scuole non riaprissero. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Torniamo sul tema mascherine. Un annuncio della Regione Liguria. È con noi il Presidente della Regione Giovanni Totti, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, l'annuncio è che distribuirete le mascherine molto presto, veramente entro poche ore, gratis a tutti i cittadini della Liguria, se ho capito bene. Così, Totti? Ha capito bene, ne abbiamo già distribuite oltre 800.000 al mondo del lavoro, cioè a tutte quelle persone che sono costrette anche oggi ad andare a lavorare per le filiere fondamentali del paese. Oggi abbiamo deciso, e ringrazio anche Poste Italiane, i farmacisti, il circuito di distribuzione dei giornali che ci aiuteranno a farlo a partire da dopodomani mattina, di recapitare a casa di ogni cittadino della Liguria un kit con due mascherine chirurgiche che in alcune situazioni, anche se come sapete la letteratura scientifica sì, su questo non è ancora univoca, possono essere comunque utili o comunque di conforto. Ecco, infatti io le volevo chiedere di che tipo di mascherine si tratta, lei mi ha già risposto, mascherine chirurgiche, quindi in tessuto, plastificate. Sì, sono chirurghe a triplo strato, quindi la migliore qualità delle chirurgiche, sì, che se indossate da tutti consente per esempio in una stanza di abbattere quella distanza di sicurezza che i virologi considerano il 1,5-2 metri, quindi può essere utile se uno si reca al supermercato, se è costretto a prendere un mezzo pubblico, purché tutti li indossino, ed è la ragione per cui non abbiamo fatto ordinanze che ne prevedono l'obbligatorietà per questo momento, ma tanto le stiamo distribuendo contando sul fatto che le persone, una volta che l'avranno, ovviamente ne faranno buon uso. Ecco, dal punto di vista anche logistico, come funzionerà, le voglio chiedere, Totti, perché intanto devo dire che siete la seconda regione, la Toscana aveva annunciato, ma non so se sono riusciti poi a partire con una distribuzione capillare sul territorio. Voi avete una popolazione un po' più bassa, però ci state provando, credo di capire, con Poste Italiane, quindi con un ausilio logistico importante. Cioè, le porterete a casa o bisogna andare nei centri postali? Come funzionerà? No, le porteremo a casa, saranno distribuite nelle cassette delle lettere, grazie a un accordo con Poste Italiane, che ovviamente ringrazio per l'impegno e la disponibilità, è un impegno non da poco, nei comuni sopra i 2.000 abitanti. Sotto i 2.000 abitanti saranno i sindaci con gli strumenti della protezione civile comunale a farci carico di recapitarle al domicilio. Fatta la prima distribuzione, che durerà circa 7-8 giorni per arrivare a tutto il 1.600.000 abitanti della Regione Liguria, questa dotazione potrà essere reintegrata attraverso le farmacie dei quartieri e le edicole dei quartieri dove i cittadini possono recarsi e attraverso la tessera sanitaria in un caso, attraverso una autocertificazione nell'altra, reintegrare la propria scorta. Ecco, io devo dire che personalmente non ho veramente niente da dire, perché poi sai, anche noi dobbiamo fare il nostro lavoro, gli ascoltatori dicono fate domande difficili, ma che domande devo fare di fronte a un annuncio del genere? Mi sembra una naturalmente stiamo provando, è tutto difficile, certo, in questo momento, certo, però certo, devo dire che le persone stanno lavorando con gran buona volontà e l'impegno di Poste Italiane in questo progetto sperimentale ci sta dando una grandissima mano. Poi dopodiché bisogna anche dire ai cittadini con grande chiarezza, sì, cosa che talvolta non viene fatta, che avere una mascherina sulla bocca può essere un aiuto in alcune circostanze, non è detto che ci protegga. Sì, ecco, questo è importante perché dirlo, perché non vorrei che diventasse una coperta. Assolutamente, di assolutamente. Uno esce con la mascherina, poi tocca da tutte le parti con le sue mani, poi si gratta gli occhi, si mette un dito nel naso, perdonatemi l'espressione, e si infetta ugualmente anche avendo la mascherina. Quindi questo è giusto ricordarlo, lo la dicono. La mascherina è uno degli strumenti che può essere utile, assolutamente, per la profilassi, ma non è un bene assoluto. Assolutamente, ce lo ricordano sempre gli epidemiologi, ha fatto benissimo a dirlo Totti. L'ultima cosa che le voglio chiedere in pochi secondi, perché questo è un tema di cui credo che parleremo nella fase 2 ma anche in quella 3, chi ha prodotto queste mascherine? Lei pensa che l'Italia debba riaprire questo argomento, cioè questa filiera, questa discussione, cioè produrre mascherine in Italia, non adesso nell'emergenza ma in futuro, perché tanto non sappiamo quanto durerà, e poi chi lo sa. Guardi, credo che l'Italia debba ripensare a tante cose, non solo la produzione nazionale delle mascherine, dei ventilatori polmonari con cui siamo andati ugualmente in affanno, dei camici monouso, delle tute, ma anche molto più sensibilmente la programmazione ad esempio degli anestesisti e dei rianimatori, in cui siamo arrivati già in grande affanno prima che cominciasse questa crisi, data una programmazione di corsi di studio e borse di studio sbagliate. Insomma, ripensare il sistema nazionale credo che sarà un esercizio abbastanza utile, lungo, abbastanza complesso ma necessario. Abbiamo tempo, grazie Totti, buona giornata. Grazie a voi, grazie. Buona giornata a tutti. 13.31, facciamo un piccolo break, torniamo tra poco. 349-238-6666. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Crolla un ponte lungo la strada provinciale in località Albiano, provincia di Massa Carrara, coinvolti due furgoni, ferito in modo lieve un autista. Il sindaco di Aulla, Radio 24, dice: ho scritto 3 volte all'ANAS per segnalare le crepe, ma dal concessionario non è arrivato nessun intervento. E intanto, sempre oggi, il GIP di Messina ordina il sequestro di 2 cavalcavie a rischio crollo sulla A20 Messina-Palermo. Rinviati a domani i lavori dell'Eurogruppo, manca l'accordo su MES e Coronabond. Gentiloni rilancia, facciamo un appello al senso di responsabilità. Sulla app per il tracciamento dei positivi al coronavirus parla il garante per la privacy. Un'ordinanza non basta, serve una legge, dice Soro. Dopo il caso del più albergo Trivulzio, anche la procura di Vercelli apre un'inchiesta. 35 vittime alla casa di riposo. minuti, di nuovo buongiorno ad Alessio Maurizi, questi i titoli delle notizie di oggi, cari ascoltatori, i vostri messaggi al 349-238-6666 e anche sulla pagina, sul sito di Radio 24, su Facebook, sulla pagina di Effetto Giorno, se volete ci trovate anche lì. Si è scatenata un po', come dire, una giusta anche corsa da parte vostra a sottolineare le iniziative nelle altre regioni di consegna e distribuzione delle mascherine in modo gratuito. Non lo fa solo la Liguria, lo ha fatto la Toscana per prima, lo abbiamo detto effettivamente, poi c'è chi dice è accaduto anche in Veneto, anche se Zaia non si è fatto pubblicità. No, vabbè, non è per questione di fare pubblicità. Guardate, interviste come quella a Totti sono anche utili perché la gente sappia, no, che ci sarà una distribuzione delle mascherine gratis, anche se la strada scelta dalla Liguria mi sembra anche dal punto di vista logistico, grazie a Poste Italiane, una scelta. Forse la Liguria ha una conformazione di popolazione geografica particolare, ma una scelta strategicamente molto azzeccata, cioè verranno consegnate nelle buste, nelle cassette delle lettere imbustate queste mascherine, quindi più di così che cosa volete. E poi insomma anche l'Emilia Romagna eccetera, riconosciamo anche alle altre regioni, può essere che ci sia sfuggita questa notizia, assolutamente facciamo ammenda. È il momento del punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. È auspicabile che almeno oggi arrivi il testo del decreto liquidità varato lunedì, con l'intendimento di dare una giusta risposta rapida al problema dell'emorragia di cassa delle imprese ormai ibernate dall'impatto del coronavirus. Si tratta del provvedimento che prevede garanzie statali per almeno 400 miliardi da girare al sistema bancario perché eroghi prestiti al mondo delle aziende e delle partite IVA per ridare appunto loro ossigeno finanziario. Ma sempre di debito si tratta, non va dimenticato, e per un settore, soprattutto quello delle PMI, strutturalmente sottocapitalizzato e più esposto rispetto a quello di altri paesi. Nessuno si aspetti però un'erogazione automatica o a pioggia. Ci sarà un modello di richiesta di garanzia alla SACE, servirà un'autorizzazione europea, resterà la valutazione sul profilo della solidità finanziaria dell'impresa. E poi due incertezze. La durata dei prestiti, che non sembra poter superare i 6 anni, mentre ci sarebbe bisogno di diluizioni ben più lunghe, e la definizione del tasso di interesse, che, a conti fatti, sembra oscillare per i prestiti di taglio più piccolo tra l'1,2% e l'1,9%. È stato fatto uno sforzo importante, ma siamo molto lontani dall'annuncio del tasso quasi a zero. Torniamo a parlare della questione delle case di riposo. Ci sono denunce di contagi diffusi, di vittime, accuse alle regioni, la Lombardia in particolare, ma non solo, per non aver tutelato la salute dei pazienti, ma anche degli operatori. Ci sono polemiche anche politiche, rimpalli di responsabilità. Le notizie: a Milano è partita l'inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio, il Ministero della Salute ha addirittura inviato gli ispettori. Un'indagine è partita a Genova sui morti di Casa Serena, un'inchiesta aperta oggi, queste sono notizie di oggi, per cui sicuramente sono incomplete. Un'inchiesta aperta a Soleto, in provincia di Lecce, e poi a Vercelli, un'inchiesta aperta dalla magistratura per la morte di 35 pazienti della casa di cura locale. Nelle Marche c'è stato un caso di 40 persone contagiate alla casa di riposo di Cigoli ed è stata una delle prime regioni nelle quali si è aperta questa questione. Ne vogliamo parlare proprio con il coordinatore di Medici Senza Frontiere delle Marche, Tommaso Fabbri. Benvenuto, grazie per essere con noi. Grazie. Allora, io chiarisco che Tommaso Fabbri è di Medici Senza Frontiere, appunto lui nella vita credo che sia un farmacista, no? Fa il farmacista. Esatto. Però si occupa anche dell'organizzazione, della logistica per Medici Senza Frontiere, ha fatto delle missioni anche all'estero come altri medici, i suoi colleghi di questa associazione, per il contrasto anche di epidemie importanti, no Fabbri, immagino? Sì, certamente è quello che cerchiamo un attimino di apportare a questo tipo di emergenza straordinaria. Lei in che tipo, in che paese è stato e in che emergenze si è trovato? Poi veniamo alle case di riposo delle Marche. Ma io sono stato lavoro con Emergenza Frontiere dal 2005, coordinatore di emergenze, che è una missione, sono stato in tantissimi posti, sia in Africa che in Medio Oriente, e ho coordinato e gestito epidemie di colera, morbillo, vaccinazioni, ecco, ho collaborato anche con Ebola, quindi C'è un'ampia esperienza naturalmente vostra, ed è questo che è molto importante, io credo, in questi giorni, sarà cruciale ancora nelle prossime settimane, sicuramente lo è stato anche in una fase iniziale, quando e dove siete stati coinvolti. Voi intanto come siete stati coinvolti nelle Marche, dove avete operato per mettere in sicurezza una decina di case di riposo, se ho capito bene? Nelle Marche noi abbiamo avuto un accordo, siamo stati invitati e ci siamo trovati subito in sintonia con l'azienda sanitaria unica regionale, con la regione delle Marche, con la quale praticamente abbiamo stipulato sin dall'inizio un protocollo di intesa. In che giorni erano, scusi Fabri, per capire quando avete iniziato questo accordo? Abbiamo firmato un protocollo di intesa, mi sembra il 22 o il 23 di marzo. Siamo arrivati proprio quel fine settimana, abbiamo fatto le prime visite nelle case, nelle strutture per anziani, e che dove abbiamo concordato un po' una collaborazione con la regione, soprattutto relativa all'area vasta 2, che è la zona di Ancona, sì, Senigallia, Fabriano e Iesi, e con la quale noi ci siamo focalizzati soprattutto subito sulle strutture per anziani e sulla formazione anche di medici di medicina generale che vanno a sostenere e a visitare persone a domicilio che sono risultate positive dal coronavirus. Senta, Fabri, le voglio chiedere che situazione avete trovato in queste case di cura e soprattutto che tipo di protocollo avete messo in moto, come avete coinvolto gli operatori, in che modo avete trattato queste case di cura mettendole, io mi auguro, insomma, poi può sempre succedere che qualcosa vada storto, ma insomma in sicurezza i pazienti, rispetto invece ad altre realtà. Abbiamo sentito che ce ne sono tante in Italia dove le cose sono andate in maniera a dir poco disastrosa. Voi come avete operato? Diciamo, come dicevo prima, quello che abbiamo cercato di fare è di contribuire con la nostra esperienza nel campo dell'epidemia, quindi di mettere a disposizione tutta la nostra, la nostra conoscenza per usare al meglio possibile i metodi di i dispositivi di protezione individuale e aiutare a migliorare quando fosse stato possibile il circuito tra virgolette sporco pulito. Quindi lavoro con gli operatori sanitari con i quali, diciamo, abbiamo scambiato molto, abbiamo cercato di capire le loro problematiche, delle persone splendide, devo dire, tutte quelle che abbiamo visto, delle persone dedite veramente all'ospite, al paziente, persone provate, anche perché tante sono state, diciamo, tra virgolette, costrette a lavorare in condizioni anche abbastanza non semplici, personale che mancava, dispositivi non sempre presenti, quindi delle persone che hanno lavorato veramente al meglio che potevano. Dopodiché, logico, noi abbiamo, con la nostra esperienza, abbiamo cercato un pochino di contribuire, di adattarci un po' alle loro problematiche e al sistema che abbiamo trovato. Nelle case di riposo abbiamo cercato di prima di tutto rivedere il circuito tra virgolette sporco e pulito, dove praticamente a volte dovevano gestire questi operatori delle persone affette dal coronavirus e gestire anche persone non affette, quindi cercare il meglio possibile di evitare qualsiasi tipo di contaminazione all'interno della struttura, una struttura piccola o grande che sia, per essere una realtà molto piccola. E il virus, se non certe pratiche non vengono fatte in maniera ottimale, si rischia che ecco, a proposito, sì, Fabri, le voglio chiedere se naturalmente è complicato, no, dare un parere su questo, ma perché secondo lei alcune case di riposo si sono trasformate in dei focolai? Cioè, se dovesse indicare un motivo, il principale, la sottovalutazione, perché sembra che in tante case di riposo sia qualcosa sia stato sottovalutato in maniera molto grave. È molto difficile dare un'opinione in merito, perché i fattori possono essere molteplici. Quello che abbiamo visto noi, abbiamo visto veramente che tutte le case di riposo che abbiamo visitato hanno chiuso, per esempio, le visite ai familiari in maniera molto celere, verso nel mese di febbraio. Appena possibile, certo. Il prima possibile. Quindi questa è stata una reazione molto positiva. Dopodiché sì, ci sono delle realtà che son difficili in generale, è un'emergenza straordinaria, è un qualcosa in cui né negli ospedali né nelle case di riposo né da altre parti sono stati abituati a gestire, quindi una cosa del genere è molto rischioso fare delle pratiche piuttosto che un'altra, quindi io non sarei per puntare il dito su una o l'altra casa. Ci sarà anche, è una cosa, certo, ci sarà anche il tempo. Sì, io la ringrazio, Fabri. Non abbiamo più tempo a disposizione. Chiaramente ci sarà tempo. Poi le inchieste lo approfondiranno per capire responsabilità specifiche, casi specifici. Da quello che lei, dalla sua prima risposta, si capisce che è stata una situazione straordinaria che ha investito sia l'ospedale sia le case di cura. E naturalmente, a seconda del livello di preparazione e di professionalità e di mezzi a disposizione in quel momento, la risposta poi può essere stata anche molto diversificata. Grazie per essere stato con noi, al coordinatore delle Marche di Medici Senza Frontiere. 13:47 al volo per ritrovare Carlo Genta. Ciao Carlo, so che, ciao Alessio, che oggi avete un altro asso nella manica. Sì, abbiamo un altro grande ospite, un altro grande convocato, che è Adriano Galliani, quindi con lui parleremo ovviamente di tutti i temi del momento e oltre, ci sarà spazio anche per, se vorranno i nostri ascoltatori, fare delle domande WhatsApp vocali 349-238-6666, mandateli, li raccogliamo, glieli facciamo. Stiamo sulla notizia, Carlo, ma io che mi sono perso qualche passaggio, adesso Galliani che cos'è esattamente per il Milan? Beh, è sempre il braccio destro di Silvio Berlusconi nel calcio, in questo momento amministratore delegato del Monza, carica che ricopriva già nel Milan. Monza primo in classifica in Serie C con un vantaggio praticamente incolmabile su chi segue, la Serie B già quasi conquistata, se si riprenderà e quando si riprenderà, ma ci faremo fare da lui il punto della situazione, perché grandi ambizioni ovviamente quelle del Monza, che non si fermerà alla Serie C naturalmente. Grazie Carlo, ti ritroviamo con tutti convocati dopo il giro delle 14. Piccola pausa, tra poco Giulia Crivelli, giornali internazionali.